Takujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz e modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Come ogni mercoledì, o quasi, alle 10.30 circa, parte Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Città Fujiko Live Club lo potete ascoltare anche sul web tramite l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it. E Radio Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità che quest'oggi è veramente succulenta, tanto succulenta che occuperà tutta la prima parte. Infatti quello che ci andiamo ad ascoltare in questa prima parte arriva da un triplo CD più doppio BR, doppio Blu-ray, è un bel cofanetto, si chiama Warren Ames Presents The Benefit Concert Volume 20. Il tutto ha bisogno di un minimo di presentazione, nel senso che Warren Ames è un famosissimo e bravissimo chitarrista, cantante, è iniziato, viene da Asheville, North Carolina, ricordatevi questo nome, ha iniziato la sua carriera a 20 anni, sua carriera professionale intendo, insieme a un country singer che si chiama David Alan Coo, però nel 1987 entrò nella band di Dickie Betts, chitarrista dell'Allman Brothers Band, durante il periodo in cui la Allman Brothers Band era sciolta, però quando decisero di riformarsi nel 1989, Dickie Betts si portò dietro Warren Ames come secondo chitarrista, però mentre Dickie Betts fu allontanato a un certo punto per problemi vari, diciamo così, Warren Ames è rimasto con l'Allman Brothers Band fino alla fine, fino al 2014. Nel frattempo però nel 1997 insieme al bassista Alan Woody aveva formato i Goth Mule, un power trio incredibilmente tosto che in seguito poi alla morte di Alan Woody qualche anno dopo diventò un quartetto con l'aggiunta di un tastierista. Ebbene, il buon Warren dal 1988 ha organizzato nella sua città natale, anche se adesso vive a New York, Nashville appunto, North Carolina, questo Benefit Concert Christmas Jam. Siamo arrivati così alla 32esima edizione, ci sono state alcune interruzioni, naturalmente quella dovuta all'epidemia e poche altre per fortuna dovute ad altri motivi. Purtroppo, dico io, non tutti questi Christmas Jam o Benefit Concert sono stati pubblicati, solamente una piccola percentuale, alcuni sia in CD che DVD che Blu-ray, altri invece solamente in DVD o Blu-ray, che è abbastanza deleterio. Devo dire che le prime pubblicazioni di questi Benefit si chiamavano in realtà Christmas Jam, la jam di Natale, perché si svolgono tutte in un periodo più o meno natalizio, e poi dopo è diventato invece Benefit Concert. Quello che ci andiamo ad ascoltare è il volume 20, anche se in realtà non sono usciti 20 volumi, ve lo dico io, ed è stato registrato il 7 e l'8 dicembre del 2018 ed è uscito quest'anno, proprio lo scorso dicembre, in concomitanza con l'apposito Benefit Concert del 2023, che vedremo poi se verrà pubblicato prossimamente. Il tutto è stato registrato agli US Cellular Center di Asheville, North Carolina, ribadisco, la città natale di Warren Haynes, e esiste in due versioni: la prima che ha due CD più il DVD, oppure quella che ho tra le mani che consta di tre CD e due Blu-ray. Vi consiglio caldamente questa, perché nel CD in più, diciamo così, c'è un pezzo strafantastico di oltre 37 minuti di Dave Grohl, chitarrista dei Foo Fighters, nonché ex batterista di Nirvana. È una cosa molto anomala per lui, ma è veramente fantastica. Però adesso, siccome non vi posso sicuramente trasmettere un brano di 37 minuti, anche se mi piacerebbe molto, ci andiamo ad ascoltare i titolari, i padroni di casa, i GovMule. Siccome il tutto è abbastanza collegato, diciamo, più o meno al jam movement americano, sono tutti brani abbastanza lunghi, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, che era la title track di un album uscito qualche anno fa da parte appunto di GovMule, e il tutto si chiama Revolution Come, Revolution Go.

Li abbiamo visti in uno splendido concerto qui a Bologna sul finire dello scorso anno. Sono Goat Mule, fantastica band per quel che mi riguarda, i padroni di casa di questo Benefit Concert che è nel suo volume 20. È la novità che vi propongo quest'oggi per tutta la prima parte di Città Fujiko Live Club. Personaggio che è libera uscita dai Fish, si chiama Mike Gordon, è il bassista nonché cantante dei Fish che partecipa a questo Benefit insieme alla sua band. Che dire di Mike Gordon, è un grande bassista, è un personaggio molto, molto interessante. Ha fatto diverse cose soliste senza un gran successo, più successo invece hanno i tours che fa insieme alla sua propria band, sia come titolare che a maggior ragione insieme ai Fish. Comunque ce l'andiamo ad ascoltare in questo pezzo che si chiama Pendulum. Lui è Mike Gordon from Fish. Song. Get ready for some more bands. E qui parte l'altro pezzo attaccato che dura un'altra decina di minuti, per cui ve lo risparmio. Questa era l'unica voce femminile, almeno come titolare, compresa in questo The Benefit Concert Volume 20. Si tratta di Grace Potter, grande personaggio che viene dal Vermont e che è partita nel 2002 insieme ai Nocturnals, la sua band, che poi ha sciolto nel 2015 per darsi alla carriera solista, che le sta dando tantissimo, ma tantissimo successo. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Lion, The Beast and The Beat, e come vi dicevo è praticamente attaccato al brano seguente, per cui ho dovuto fare questa interruzione molto drastica. E vi ho accennato prima a Dave Grohl, ex batterista di Nirvana, chitarrista nonché fondatore nonché cantante dei Foo Fighters, con questo magnifico brano di 37 minuti che si chiama Play, nome un programma, e che però si estrinseca anche in versione acustica. Due brani appunto dei Foo Fighters fatti dal buon Dave, uno dei quali insieme al gestore della situazione, vale dire Warren Haynes. Ce ne andiamo ad ascoltare una coppiata veramente non indifferente, Times Like This, il pezzo. Well, hello. Hey, everybody, how you doing? How's it going out there tonight? Ladies and gentlemen, it is an honor to be here. This is my first time in Asheville. I've never been to this place before. I could sit here and tell stories to you for the next 3 hours, but I don't think I'm going to do that tonight. I'm going to sing a little song. With the most wonderful badass I've ever met in my life. His name is Warren Haynes, and I'm honored to be here with him. I'm gonna sing this one with him. It's called Times Like These. Sounds like this. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a street light shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Stars upon tonight. I'm a little divided. Do we stay or run away?

Per quel che riguarda il 2023, lo scorso anno, Joe Bonamassa, che è colui che ci siamo ascoltati adesso con questa Spanish Boots, dicevo, Joe Bonamassa è stato molto molto a riposo, non ha praticamente pubblicato niente dal vivo, ed è una cosa un po' strana, perché usualmente viaggia sui 2, a volte 3 album live l'anno. L'unica apparizione live che è stata pubblicata è questa, appunto, Spanish Boots, che è stata registrata, Boots plurale, perché sono sempre 2 gli stivali, si spera. È stato registrato appunto in occasione del Benefit Concert Volume 20, che è la novità che vi propongo quest'oggi, e che è stata registrata però nel 2018. Andiamo a concludere questa prima parte dedicata integralmente a questo cofanetto. Lo ripeto, nel mio caso sono 3 CD e 2 Blu-ray, anche se esiste la versione 2 CD più DVD, ma tutte sono interessanti naturalmente. Ci sono anche personaggi, chiamiamoli minori, anche perché abbastanza sconosciuti più che altro. Abbiamo infatti Jim James, che è il cantante chitarrista dei My Morning Jacket, abbiamo Tyler Ramsey, Edwin Kane, tutta gente che è abbastanza legata al country. Sono una serie di quei personaggi come Eric Church, che ci ascolteremo dopo in apertura di seconda parte, tutti i personaggi, come si suol dire, troppo rock per il country, troppo country per il rock, quindi sono in questa mezza via, in questo limbo, che però non impedisce loro di fare dell'ottima musica. A concludere questa prima parte arriva un grande tastierista, si chiama Marco Benevento, malgrado il nome è nato nel New Jersey ed è molto coinvolto nella scena musicale di New York, specialmente quella di avanguardia. Lui ha formato una band insieme al batterista Joe Russo, che si è estrinsecata, diciamo così, dal 2002 al 2006 sotto la denominazione Benevento Russo 2. Poi ha fatto un passo indietro, ha lasciato la leadership a Joe Russo, che ha formato questa band che si chiama Joe Russo Almost Dead, una cover band dei Dead, e non solo, ma una grande cover band, fa degli arrangiamenti veramente notevoli. Vi consiglio caldamente di cercarlo sul web, si chiama Joe Russo's Almost Dead, perché oltretutto si possono scaricare concerti a gratis, e questo è sempre benemerito. Naturalmente Marco Benevento ha una sua propria band che gira per gli Stati Uniti proponendo la propria musica, ed è tipo quella che ci andiamo ad ascoltare adesso, che si chiama Green Point, e che conclude questa prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. This is a song called Green Point. We'll be right back. why are you crying? I've been around here 3 long days and looking like we're dying. Go step yourself outside and take a look at the stars above. Get on downtown, babe, I'll find somebody to love. In my life, I ain't wasting time, no. Cause time goes by like a pouring rain, much faster than seconda parte della seconda trasmissione del 2024 di Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che state ascoltando e che potete ascoltare ogni mercoledì, o quasi, fra parentesi, ogni mercoledì dalle 10.30 in poi. Seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, un cofanetto triplo CD e doppio Blu-ray che racchiude gli highlights di una serata lunghissima, fra parentesi, che è stata denominata The Benefit Concert. Nel caso abbiamo il volume 20, anche se, come ho detto in precedenza, non sono usciti 20 volumi di questo Benefit Concert, che in realtà va in onda dal 1988. A presentare il tutto Warren Haynes, e quindi non potevano non essere omaggiati Allman Brothers Band, che è il gruppo col quale Warren Haynes è assurto a fama mondiale, giustamente e meritatamente. Si chiama I'm Wasting Time No More, il pezzo che ci siamo ascoltati, da parte di Eric Church, che è uno di quei personaggi che ho citato in precedenza, troppo rock per essere country per gli amanti del country, troppo country per gli amanti del rock, ma comunque fa sempre delle cose molto molto interessanti. Eric Church. Yeah, I said, hey, come on, let's go downtown. Ma anche in questo 2024, nella seconda parte di Città Fujiko Live Club, arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni. Come sempre, per quel che riguarda gennaio, non ci sono numerosissime registrazioni, per meglio dire, ma si trova sempre qualcosina. Ad iniziare dal 1976, 17 gennaio, siamo probabilmente, anche perché non c'è scritto nelle note di copertina, al Paris Theatre di Londra, che è il teatro che la BBC, l'ente di Stato radiotelevisivo britannico, affittava per produrre concerti che poi sarebbero stati trasmessi in TV qualche giorno dopo o addirittura in diretta. Qui appunto siamo nel 1976, personaggio straordinario quello che ci andiamo ad ascoltare, grande cantante, si chiama John Henry Dayton. Questo nome non vi dirà niente, ma forse Chris Farlow dirà qualcosina di più. Lui viene da Londra, è attivo dal 1957, quindi tantissimi anni fa, ha cominciato giovanissimo ma anche una certa età. Partì come artista solista con una serie di successi, soprattutto negli anni 60, uno su tutti, la sua versione di Out of Time dei Rolling Stones, arrivò al primo posto in praticamente tutte le classifiche del mondo, credo, eccetto Italia. Nel 1970 entrò nel Colosseum e allo scioglimento di questi nel 72 negli Atomic Rooster, e poi proseguì con la propria carriera solista. Non se ne sa un po' più niente, anche per le mie ricerche non sono arrivato a una decisione finale, ma probabilmente causa anche l'età si è ritirato da un paio di anni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è un classico di Mike Debo, che fu il primo Ponzio Pilato, se ricordo bene, nella prima versione di Jesus Christ Superstar. Il pezzo che hanno rifatto un po' tutti si chiama Handbanks e Gladrex, lui invece si chiama Chris Farlow, 17 gennaio 1976. I'd like to carry on with a number that we had a little hit with about 10 years ago. This one's called Handbanks and Gladrex. Blind man cross the road trying to make the other side. Ever seen a young girl growing old trying to make herself a bride? Once I was a young man, and I thought all I had to do was smile. You are still a young girl, oh, and you bought everything that's in the sky. Once you think you're in, you're out, and you don't mean a thing without what is happening. those glad rags that I have to sweat sort of years back. Sing a song of sixpence for your sake, baby. I'm gonna drink some Southern Comfort rye. Four and 20 blackbirds, stick them in a cake. Come on, baby, ball in a pie. Well, they told me you missed school today, so I suggest you throw away those handbags and those glad rags. I have to sweat, I have to sweat, so you be mine. Oh, they tell me had a good time together, but it's gone, gone, gone. You bet your life, it's gone. But someday, someday you'll find someone. You can have those handbags and glad rags all again. Sembra un brano bellissimo questo, Chris Farlow lo canta alla grandissima, anche se devo ammettere che personalmente preferisco la versione di Rod Stewart, ma questa è un'opinione personale e sono veramente di parte, essendo musicalmente innamorato della voce di Rod Stewart. Comunque si chiama Handbags and Glad Rags, è stato registrato il 17 gennaio del 1976, come dicevo, probabilmente in quel di Londra. Passiamo agli anni 80, esattamente al 1980, e cambiamo radicalmente, ma radicalmente, genere musicale e approccio musicale. Stiamo parlando di una band che John Lydon, detto anche Johnny Rotten, fondò originariamente nel 1978, nel 1992 lo sciolse, ma la riformò nel 2009 ed è tuttora in giro. Public Image Limited, dette anche PIL all'italiana. E Johnny Rotten, naturalmente lo sapete, è l'ex cantante degli Sex Pistols, personaggio quantomeno strambo, e che però ha un certo seguito e un, come si suol dire, un suo perché. Andiamo, non so quale sia il perché, ma ce l'ha. Comunque andiamo avanti. Questo album, che è il primo album live fatto dai Public Image Limited, ha un titolo francese, per cui già con l'italiano sono scarso, l'inglese è pessimo, col francese vado proprio nel sottoscala. Comunque dovrebbe chiamarsi più o meno Paris au printemps, vale a dire Parigi in primavera. In tutto l'album ci sono questi passaggi fra l'inglese e il francese che comunque è un vinile che ci andiamo ad ascoltare. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Theme, il tutto registrato il 17 di gennaio del 1980 al Palace in Parigi, Francia.

take your blindfold off. I've been twisted and turned by what I have learned. I'm super deformed and my blood is warm. You know I'm super deformed. My blood is still warm, but I'm super deformed. You know I'm super deformed. You can't say you weren't warned. I'm super deformed. Now dig it. Don't you love me tender? Oh, come on, kiss me sweetly. Don't you love me tender? Oh, come on, kiss me sweetly. Don't you love? You love me tender. Oh, come on, kiss me sweetly. Siamo nel 1994, sempre 17 gennaio, sempre città Fujiko Live Club, sempre Ricordi Today con Matthew Sweet, personaggio, si può dire, del sottobosco musicale americano, perché non è che sia famosissimo neanche negli Stati Uniti, figuriamoci in Italia, ma lui arriva da Lincoln, Nebraska, anche se poi se n'è andato all'università ad Athens, Georgia. Da lì è entrato in contatto con R.E.M. e con tutte le bands tipo B-52s di Athens, Georgia, appunto, e non si è più schiodato da lì, ma ha avuto una carriera solista discreta, con discrete vendite, discreto successo, e soprattutto tre album, mi sembra, di covers fatte insieme a Susanna Hoffs delle Bengals, ex Bengals, e ha avuto successo soprattutto con questi tre album più che con i propri solisti. Comunque, questo è un mini album, un EP che si chiama Son of Altered Beast. Altered Beast è uno dei suoi album più conosciuti. Questo è il figlio di Altered Beast, proprio perché è un extended play con due canzoni in studio e cinque canzoni dal vivo, quattro delle quali, fra cui queste che ci siamo ascoltati, che si chiama Super Deformed, sono state registrate al 9 and 30 Washington, di Washington DC. 9 and 30 è il club perché chiaramente i concerti cominciano alle 9:30, e appunto è stato registrato nel 1994. È un nome interessante, lo ripeto, non quelli di prima linea, ma ha fatto delle cose veramente più che degne, più che discrete. Matthew Sweet. E ci sono delle realtà che qui in Italia sono abbastanza sconosciute ai più, soprattutto in Gran Bretagna ci sono gruppi che sono idolatrati fino veramente all'inverosimile, e soprattutto nelle varie location, tipo in Scozia sono idolatrati i gruppi scozzesi, il Galles altrettanto, eccetera eccetera eccetera. Elbow è una band scozzese che ha avuto un grande successo, malgrado alcuni di loro arrivino da Manchester, ma comunque sono attivi dal 1997, e il loro album più famoso si chiama The Seldom Seen Kid, che è stato poi è stato duplicato con una versione live registrata all'Abbey Road Studios, che è stato confezionato in uno splendido cofanetto con CD e DVD, e il tutto insieme alla BBC Concert Orchestra. Era il 2009, 17 gennaio naturalmente. Il brano è il loro brano, secondo me, più famoso. Si chiama One Day Like This. Loro sono Elbow. Drinking in priest. If you think I wink, I did. Laugh politely at the beast. Oh, kiss me when my lips are thin. Cause holy cow. Pomposissimi questi Elbow insieme alla BBC Orchestra che ha registrato questa riproposizione del loro album più venduto, più conosciuto, The Seldom Seen Kid, in quel degli studi Abbey Road. Era il 17 gennaio del 2008. A questo punto siamo arrivati all'ultimo brano, ma prima alcuni aggiornamenti, nel senso che io non sono per scelta su Facebook, per cui ogni tanto spesso perdo qualche colpo. Infatti mi è stato mandato un link proveniente da Facebook, e devo dire che Chris Farlow lo scorso anno ha fatto un tour in Israele insieme ai Colosseum, che non credo c'entrino molto con quelli originali, perché molti di loro sono deceduti, ma comunque girano ancora col nome di Colosseum. Mi scuso naturalmente con gli ascoltatori. E altra cosa, appunto, non essendo sui social, ho qualche difficoltà a rispondere all'ascoltatore che mi ha scritto, e che niente, dopo farò un corso accelerato per risponderti, non preoccuparti. Siamo arrivati alla fine, vi dicevo, di questa città Fujiko Live Club del 17 gennaio 2024. Ogni mercoledì più o meno dalle 10.30 in poi ascolterete un paio di ore di musica dal vivo, sempre sui 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko da Bologna. L'ultima cosa è appannaggio di una band abbastanza nuova, diciamo così. È stata fondata nel 2004, ma poi i primi album ufficiali sono stati pubblicati nella decade successiva, perché il loro leader, colui che ha fondato questi Howling Rain, all'inizio ha fatto pubblicare un paio di album, tre per la precisione, non un paio, con varie etichette minori, e sono assolutamente introvabili. Poi lui ha deciso di fondare una propria casa discografica che si chiama Sylvan Current Records, e da lì in poi ha pubblicato gli album di questi Howling Rain in maniera abbastanza normale, diciamo così, reperibili. E ha fatto anche una serie che si chiama Under the Wheels, che è arrivata al numero 5. Alcuni di questi si trovano solo in download, i primi due in vinile. Dal primo di questi Under the Wheels, il volume 1, che si chiama Live from the Toast, ci andiamo ad ascoltare Goodbye Ruby. È stata registrata all'ICO di Los Angeles, California, il 17 gennaio del 2019. È tutto per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio, loro sono Howling Rain.